che sono le loro idee radicali. Quindi Twitter e Facebook oggi sono molto meglio usati dall'IS combattente che non dal cosiddetto counter-terrorism, dalle istituzioni occidentali che ancora dibattono su come un'istituzione possa utilizzare, se possa utilizzare i social network. Quindi siamo ampiamente in ritardo. E dall'altra, l'uso delle immagini. Sì, le immagini tradizionali, soprattutto sui social, sono sempre state quelle delle vittime di IS, quella dei mezzi militari e logistici catturati, ma anche quelli più recentemente, per esempio, delle contronarrative, cioè si racconta ISI come non è efficace l'attività governativa dello Stato iracheno piuttosto che siriano. Ecco, accanto a questo si è sviluppata tutta un'intelligenza il cui obiettivo è vero, noi IS siamo combattenti per le nostre idee radicali, ma siamo delle persone normali, questo è quello che si vuole far passare. Grazie al professor Marco Lombardi, It's Time, ma anche docente alla Cattolica. Buona giornata e buon lavoro, professore. Grazie a voi e a presto. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, siamo di nuovo in onda con il meglio di Nessun Luogo è Lontano, il vostro appuntamento con gli esteri, con tutto ciò che accade al di fuori dei confini nazionali, le interviste più significative della settimana. Sono stati giorni continui di tensione a Ferguson in Missouri negli Stati Uniti, dove sono continuate le manifestazioni e le proteste della comunità afroamericana dopo l'uccisione da parte della polizia locale di Michael Brown, un ragazzo di 18 anni. Mercoledì, in collegamento con noi da Ferguson, c'era Alice Speri, che è inviata di Vice.com News, ed ecco la sua testimonianza. Police in riot gear, firing stun grenades and tear gas in a chaotic scene. As protesters demand justice for Michael Brown, the unarmed teenager fatally shot by police 10 days ago. Once again, the peace here in Ferguson kind of hung by a string. As you mentioned, there was this standoff where protesters who had been marching peacefully up and down along the side of the street. This is a real problem when it comes to police brutality and how young black men, or BMWs as we say at the NAACP, black men walking, are being dealt with on the street. It appears that there seems to be this lack of care for black life. And I'm in denial, and it don't take no x-ray to see right through my smile. I know. Al 349-238-6666 il primo ascoltatore dice: gli Stati Uniti sono un paese davvero emblematico, eleggono un presidente nero ma continuano a dimostrare il sostanziale razzismo che infetta gli stati, proclama la pace e porta la guerra in ogni luogo della terra. Così sconsolato Carlo ci scrive al 349-238-6666, ma le ultimissime da Ferguson ce le facciamo raccontare da Alice Speri, che è inviata di Vice.com News. Alice, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, Alice, innanzitutto lì è mattino, che aria tira a Ferguson, com'è andata la nottata? Raccontaci un po'. Questa è stata un'altra lunga notte a Ferguson. Noi siamo, io lavoro qua con un gruppo di produttori. Siamo tornati verso le 4:30 come tutte le altre sere, praticamente siamo qua da una settimana e ogni sera è una sfida veramente. La polizia blocca le strade, ci sono scontri con lacrimogeni, parecchie persone sono state arrestate l'altra sera, nelle ultime 2-3 sere ci sono stati anche scontri a fuoco, quindi la situazione sta diventando veramente pesante. C'è stato un momento qualche giorno fa in cui si pensava si mettesse a passo un po' la cosa, la polizia aveva deciso di escalare il conflitto, come dicono qua, sì. Di ritirarsi un attimo, e invece poi gli scontri sono continuati e da ieri sera è arrivata anche la Guardia Nazionale, quindi di fatto l'esercito. Sì, fra l'altro Alice, quella nomina fatta in tutta fretta, no, del nuovo capo della polizia di colore, sembrava che avesse in qualche modo sedato gli animi, era in qualche modo un benefico cavallo di Troia in una situazione in cui, lo dobbiamo ricordare, la maggior parte della popolazione della cittadina di 20.000 abitanti è nera, ma il 90% della polizia è bianca, e allora sì, evidentemente con quella mossa il governatore intendeva dare un segnale, no? Era stato decisamente un tentativo di cambiare un po' il tono della situazione. Come tu hai detto, ci sono solamente due poliziotti di colore nella forza di polizia di Ferguson, che è una cittadina principalmente nera. Il nuovo poliziotto ha sicuramente cercato di cambiare un po' il tono, si è visto per strada parlare con la gente, stringere una mano alle persone, anche abbracciare le persone, cercare di ascoltarle. Poi però quello che è successo è che il giorno dopo la sua nomina la polizia di Ferguson, che è un altro dipartimento, perché qui abbiamo diversi dipartimenti di polizia coinvolti, e hanno rilasciato il nome del poliziotto che è accusato di aver ucciso Mike Brown, ma hanno anche accusato Mike Brown di essere stato coinvolto in una rapina poco prima dell'episodio. Sì. Quindi la gente si è molto arrabbiata, hanno accusato la polizia di voler distruggere il ricordo di Mike Brown e le tensioni sono tornate a salire. E certamente lo schieramento della Guardia Nazionale non è un buon segno, perché quando si viaggia verso la militarizzazione e, come dire, l'ordine pubblico, quando il racconto della situazione diventa esclusivamente l'ordine pubblico, evidentemente c'è una gestione che non è efficace. Da più parti si è detto c'è un'amministrazione che non parla con la gente, ed era quello che forse che il nuovo poliziotto, il nuovo capo della polizia aveva tentato di fare. Però Alice, volevo farti una domanda, si riesce a capire, seguendo gli scontri, seguendo le dinamiche di strada, se si avvera quella voce che dice che ci sono gruppi anche armati di pistole che arrivano però da fuori, quindi in realtà Ferguson sta fungendo in qualche modo da catalizzatore di gruppi che non c'entra niente con la cittadina, ma cavalcano un po' il malcontento per... Sì, quello sicuramente si può notare, ci sono gruppi, intanto gruppi di persone bianche che non vivono a Ferguson, che vengono da fuori, ci sono gruppi anarchici che hanno cercato un po' di stimolare anche le violenze, ma poi ci sono anche diversi gruppi molto pacifisti che vengono da diversi stati negli Stati Uniti, perché qui ci sono proteste e dimostrazioni tutto il giorno, tutti i giorni e poi anche di sera. Quindi abbiamo anche molti volontari che arrivano da altri stati, che cercano di aiutare la gente. E in un certo senso di giorno è anche quasi una bella esperienza da vedere, nel senso che c'è molto dialogo, molto scambio di opinioni, la gente parla di questo problema che di fatto è un problema che si vive attraverso gli Stati Uniti dappertutto, non solo qui. Ma per tornare al discorso della militarizzazione delle strade, qui l'idea che forse è difficile vedere da fuori, che la gente è completamente scioccata. Noi siamo in un quartiere che non è particolarmente ricco, particolarmente benestante, però è comunque un quartiere residenziale dove la gente di fatto si trova file e file di poliziotti per strada, dove hanno chiuso le scuole, dove la gente che cerca di tornare a casa viene fatta spostare dalla polizia, gli dicono di andare da un'altra parte, tornano da queste altre parti, gli vengono poi mandati altrove, quindi è una situazione veramente di occupazione militare, come i residenti di Ferguson l'hanno definita. E negli Stati Uniti in tanti non si sarebbero mai aspettati di vedere una cosa del genere. No, fra l'altro insomma riporta alla mente episodi molto molto distanti negli anni in tutt'altro stato, penso a Los Angeles nel 92, ma poi lo esploreremo nel proseguo della trasmissione, forse anche il paragone con gli anni 60 è azzardato, ma qualche punto di contatto ce l'ha. Alice, l'ultima domanda invece riguarda il fatto, questi risultati dell'autopsia, la seconda autopsia che è stata autorizzata, che hanno svelato in realtà 6 colpi d'arma da fuoco, di cui almeno uno letale alla testa, uno sotto al braccio, per cui pare che Michael Brown avesse le mani alzate. Sì. Che altre... Questa è una delle cose che si sono sentite fin dall'inizio. Lo slogan delle dimostrazioni è stato proprio hands up, don't shoot, mani alzate, non sparare. Ed è stato proprio quello che ha catalizzato tutto questo movimento, nel senso che ci sono diverse testimonianze di persone che erano presenti, che hanno detto che Mike Brown è stato ucciso quando aveva le mani alzate, non era armato, come abbiamo poi abbiamo avuto conferma di questo dalla polizia, e quindi questo è diventato proprio lo slogan. Alla sera, quando ci sono i poliziotti per strada, ci sono decine, anche centinaia di persone che camminano per strada con le mani alzate chiedendo di non sparare, e quindi l'autopsia ha di fatto confermato questo fatto che la polizia locale aveva cercato di disputare. Chiarissimo. E quindi appunto Fra l'altro, scusami, ti interrompo Alice, però anche gran parte del materiale fotografico che esce da Ferguson, il racconto anche iconografico, è proprio queste mani alzate, queste mani verso il cielo, a testimoniare di quanto il fatto, insomma, che ci stai riferendo sia non solo vero ma anche radicato in quella situazione. Telegrafica l'ultimissima domanda, Alice, e poi ti lascio al tuo lavoro, o meglio al tuo riposo, direi che dopo queste nottate ne hai ben diritto. Quanto è difficile lavorare per voi con telecamera in spalla? Con la polizia si riesce a lavorare o no? È stato molto difficile, soprattutto perché c'è moltissima ostilità da parte della polizia. Hanno avuto ordini di trattarci meglio, per così dire, ma di fatto se tu come giornalista lavori nelle file dove ci sono i residenti di Ferguson, ti trovi a essere colpito dai lacrimogeni come gli altri. La prima sera io sono poliziotta che mi ha chiesto proprio semplicemente vuoi che ti spariamo se non ti sposti. Quindi è molto molto pesante la situazione, è veramente un posto molto difficile dove lavorare. Allora Alice, i nostri più caldi in bocca al lupo, buon lavoro, buon riposo, buona giornata. Alice Speri, inviata di Vice.com News a Ferguson, grazie, a presto. Grazie. Ascoltiamo insieme i numeri del divario che ci danno una dimensione di come sono gli Stati Uniti, di com'è il rapporto tra la comunità bianca e quella nera, e di cui Ferguson è in qualche modo l'emblema. Gli afroamericani costituiscono il 13% della popolazione statunitense, il 14% dei consumatori di droga abituali, ma il 37% delle persone arrestate per spaccio e il 57% dei carcerati per reati legati alla droga. Secondo uno studio del Dipartimento di Giustizia del 2011, nella città di New York l'80% degli autisti fermati appartiene alla comunità afroamericana o ispanica. A Ferguson, dove il 65% della popolazione è costituita da afroamericani, ma l'85% dei poliziotti è bianco, gli autisti neri sono fermati dalla polizia nell'86% dei casi e nel 92% delle volte vengono perquisiti. In caso di arresto, un afroamericano ha il 33% di possibilità in più di essere trattenuto per custodia cautelare in attesa del processo. Secondo la US Sentencing Commission, gli afroamericani ricevono pene più lunghe del 10% rispetto ai bianchi condannati per lo stesso reato. I 2/3 degli ergastoli totali vengono comminati a imputati non bianchi. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, un maschio afroamericano nato nel 2001 ha il 32% di possibilità in più di andare in prigione nella sua vita rispetto a un coetaneo bianco. Secondo un sondaggio di Associated Press del 2012, il 51% degli americani ha espresso sentimenti contro la comunità nera, il 3% in più rispetto al 2008. Attualmente il 50% degli statunitensi sotto i 18 anni appartiene a una minoranza etnica. Si stima che entro il 2042 i non bianchi costituiranno la maggioranza della popolazione americana. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo è Lontano in versione weekend. Mercoledì scorso abbiamo dedicato un'ampia pagina all'immigrazione con un focus sulla gestione dell'emergenza dei richiedenti asilo. Lo abbiamo fatto fra gli altri con Christopher Hein, che è direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati. E la Commissione europea disse di no ad Alfano, Mare Nostrum rimane un problema italiano. Questo in sostanza è il messaggio che viene da Bruxelles. E fra l'altro uno dei portavoce della Commissione europea, in particolare Anthony Gravilli, ha detto l'Italia ha beneficiato di 500 milioni di euro tra il 2007 e il 2013, ne riceverà 315 tra il 2014 e il 2020. Si chiedeva dove sono andati a finire tutti questi soldi. Fra l'altro era una delle domande che io volevo porre al ministro Alfano, che abbiamo ovviamente invitato, però per il momento non ci ha dato risposta. Chiaramente l'invito rimane aperto, perché ci piacerebbe andare a fondo di questa questione. Do intanto il mio buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Christopher Hein. Buongiorno. Buonasera a voi. Direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati. Con lei, Hein, vorrei affrontare quello che è probabilmente uno dei nodi più importanti se osserviamo la questione immigrazione a livello europeo, che è il regolamento Dublino 2, che è già stato citato dal collega Beda Romano. Questo regolamento impone al primo paese che il migrante tocca, il primo approdo, diciamo, impone a quel paese lì di espletare tutte le varie pratiche, ad esempio per il diritto d'asilo, eccetera, eccetera. Si è parlato da più parti, si è avanzato l'ipotesi di una carta comunitaria, cioè per fare in modo che si evitino questi rimpalli, questi ping pong di migranti fra le varie frontiere. Uno arriva in Italia ma vuole andare in Svezia, come è per il 95% dei siriani per esempio, Svezia, Inghilterra, Norvegia, poi viene beccato, come la cronaca degli ultimi giorni ci ha consegnato, ad esempio al confine con la Germania, e viene rispedito verso il Brennero. Lei quest'ipotesi, Hein, di una carta europea del rifugiato, come la vede? Potrebbe essere una soluzione?